English Bit di Giulia Crivelli. Pick. Who will Trump pick for vice president? In the end, the Republican candidate may simply want to choose the person he likes the most. Anche i media arabi stanno seguendo con molta attenzione il percorso che resta da fare per arrivare al voto americano di novembre. Al Jazeera ha dedicato un servizio al candidato repubblicano Donald Trump e alle sue possibili scelte come vicepresidente. Chi sceglierà Trump come vice? Alla fine, forse, vorrà semplicemente avere la persona che gli piace di più, the person he likes the most. La parola che ci interessa però è pick, verbo regolare che significa scegliere ma che si presta da solo come phrasal verb a molte altre interpretazioni. You know very little about the fashion industry. Pick your sister's brain. Sai molto poco dell'industria della moda. Approfitta della conoscenza di tua sorella, cioè fai un picking, stuzzica il cervello di tua sorella. It was easy to pick holes in his arguments. È stato facile trovare delle falle nel suo ragionamento. The company picked up the bill for his hotel. Il conto dell'albergo fu pagato dall'azienda. E sempre usando to pick up, government will continue to pick up college fees for some students. Lo Stato continuerà a pagare le rette universitarie di alcuni studenti. You can't live your children's lives for them. Can only be there to pick up the pieces when things go wrong. Non puoi vivere la vita dei tuoi figli al loro posto. L'unica cosa che puoi fare è esserci per raccogliere i cocci quando le cose non vanno bene. Pick up vuol dire anche rafforzarsi. The wind is picking up. Il vento sta aumentando. Sales have picked up this year. Quest'anno le vendite sono aumentate. O ancora, he goes to clubs to pick up girls. Frequenta le discoteche per rimorchiare. Oppure, can you pick me up after tennis practice? Puoi venire a prendermi dopo gli allenamenti di tennis? Se sostituiamo up con on, il significato cambia ancora. She was picked on by the other girls because of her size. Le altre ragazze la presero in giro per via del suo peso. He picked on two of her statements which he thought were untrue. Nella critica si concentrò su due delle sue affermazioni che considerava false. Tra le parole composte segnaliamo pickpocket, borseggio, pickup truck o semplicemente pickup, che significa furgone o telonato, come si sente a volte dire in italiano.